actor would you want to play you? Here are some suggestions that I've heard. Ben Stiller, Brad Pitt. Which one? Oh, Brad Pitt, of course. Eccoci qua, Giulia. Ciao Giulia Crivelli, buongiorno. Ciao. Abbiamo sentito... Che cosa abbiamo sentito? Raccontiamo. Guarda, era un'intervista del 10 di aprile, un'intervista al mitico Anthony Fauci, e la giornalista gli chiedeva: ma se mai qualcuno dovesse impersonarla, ma anche in un biopic, non per prenderla in giro, preferirebbe Ben Stiller o Brad Pitt? E naturalmente Anthony Fauci ha detto Brad Pitt, che penso moltissime donne considerino uno degli uomini più belli del mondo, almeno di quelli conosciuti. E quindi poi è successo, e se vuoi sentiamo anche questo brevissimo, questa brevissima audio di Brad Pitt, imitazione, che ha in effetti esatto, di Fauci. Now there is a rumor that the president is going to fire me. Let's see what he said about that. Today I walk in, I hear I'm going to fire him. I'm not firing him. I think he's a wonderful guy. So yeah, I'm getting fired. Sarebbe interessante, Giulia, forse tu puoi dircelo, no? Se l'imitazione era efficace, questa di Brad Pitt, oppure no? Secondo me era fantastica. Brad Pitt è passato proprio da essere solo un ragazzo bellissimo, lo ricordiamo credo in tante, in Thelma e Louise, in un attore che soprattutto sa molto prendersi in giro. Qui è al Saturday Night Live, che è lo show comico per eccellenza americano, che ha reso famoso John Belushi, per intenderci, e che ha ripreso di nuovo dopo un lockdown anche loro, dove tutto si faceva da casa. E Brad Pitt ha appunto impersonificato Anthony Fauci, facendo sentire quando Anthony Fauci dice: ma sento dire che Trump sta per licenziarmi, to fire me. Si sente Trump che dice: ma no, ma io non lo voglio assolutamente licenziare, è un ragazzo fantastico. E Brad Pitt riprende la parola e dice: ok, sarò licenziato. possiamo farci due risate, per carità, fa sempre bene. Però queste tensioni all'interno degli esperti della task force in realtà sono sulle pagine di tutti i giornali americani, perché Mike Pence, che è il capo di questa task force, non è mai andato d'accordo col ministro della salute, che forse molti si aspettava di essere lui nominato capo di questa task force, quindi il ministro della salute potrebbe essere presto licenziato. Anthony Fauci stesso ha fatto molta fatica a digerire l'ennesima uscita di Trump, quella sui disinfettanti e l'utilità di essere esposti a raggi ultravioletti per distruggere il coronavirus, e quindi insomma ancora questo è il tema. E poi direi, per riassumere, che gli Stati Uniti stanno un po' andando proprio come singoli stati, un po' in ordine sparso sulle riaperture. In Georgia da ieri sono aperti molti barbieri, ci sono foto di tutti naturalmente questi negozi che si sono equipaggiati, grandi mascherine per tutti, proprio anche un po' quasi fantascientifiche, non quelle semplici chirurgiche, però il punto è che adesso bisogna vedere a breve, medio termine, se ci sarà il temuto, diciamo la temuta seconda ondata, o se in effetti comunque il virus ormai si sta un po' esaurendo di suo, diciamo così, per capirci, come del resto sta succedendo anche in Europa, e quindi forse queste riaperture tutto sommato sono un atto coraggioso politicamente che forse potrà in effetti tamponare quegli effetti devastanti economici che ci sono e che naturalmente anche oggi sono su tutti i giornali americani. Giulia, in Europa invece Francia, Spagna, Gran Bretagna, ci sono notizie un po' da tutte le parti. Dove vuoi iniziare? Ma se vuoi forse dalla Francia, sentivo questo grande tema della riapertura delle scuole. Sappiamo che Macron in un primo tempo aveva detto l'11 maggio, ci sono ancora alcuni dettagli da definire, soprattutto appunto come spiegava anche il tuo ospite, è diverso per bambini più piccoli, per bambini più grandi, continua a esserci il grande tema delle disparità nell'accesso alle tecnologie, chi non ha i PC a casa, chi non ha dei buoni collegamenti. Bellissimo. Siccome sono piovute critiche su Macron per essere stato un po', per averla fatta un po' troppo facile, forse perché guarda caso non ha bambini, lui non ha bambini piccoli, chi li ha? Io non li ho, ma ho tante amiche che li hanno, tu li hai e sanno veramente che cosa vuol dire non poter offrire loro la scuola quella vera. E quindi domani c'è questo attesissimo intervento in Parlamento, non in conferenza stampa, è una cosa molto più, diciamo, che ha i caratteri molto dell'ufficialità e della solennità, del Premier Philippe, mandato avanti come sempre da Macron, che dovrebbe dare effettivamente molti più dettagli anche sulla scuola. E questa è la prima pagina di Le Figaro, che però ha anche un editoriale che si intitola SOS Imprese, perché anche lì naturalmente abbiamo visto settimana scorsa le percentuali di persone che ormai dipendono da un qualche tipo di sussidio pubblico per avere una qualche forma di introito garantito in questi mesi di lockdown. Naturalmente c'è l'emergenza imprese. In prima pagina sulle Figaro poi, e naturalmente sui quotidiani britannici, c'è Boris Johnson che da oggi finisce la sua convalescenza in campagna e torna a Downing Street. Ha sicuramente, nelle foto che sono state diffuse, un aspetto di persona che ha attraversato una malattia provante, perché sappiamo che anche il solo fatto di essere stato in terapia intensiva senza essere attaccato a un ventilatore ha delle conseguenze, come può raccontare qualsiasi medico che lavora in quei reparti. E quindi, insomma, però da combattente, quale sicuramente è, da oggi sarà a Downing Street. Non è ancora chiarissimo se parteciperà alle conferenze stampa giornaliere, dove i ministri si presentano fisicamente, i giornalisti sono in videocollegamento, quindi quello vedremo. Però anche lui è naturalmente alle prese con il piano, la fase 2, non ha un team di esperti come abbiamo noi in Italia, ma non credo che sia per questo che ancora non si è pensato, ma per il fatto che i dati del Regno Unito sono sicuramente, essendo loro indietro di un paio di settimane, sono ancora abbastanza alti. Sì. Esatto. Invece un paese che ci assomiglia, l'abbiamo sempre detto, la Spagna, non solo ci assomiglia, diciamo, per il DNA, ma anche per l'andamento proprio dell'epidemia. E anche lì si stanno facendo ragionamenti simili ai nostri da tanti punti di vista, vero Giulia? Sì, sono molto belle le foto, insomma, fanno piacere, perché sicuramente quelle delle città deserte sono suggestive, ma fa piacere vedere anche che le persone si riappropriano degli spazi esterni, tanto che ABC titola Ansia di libertà. Tra l'altro questo quotidiano oggi è in edicola con in celofanata una mascherina per tutti. Le foto sono quelle di ieri, perché a partire in realtà ci sono alcuni giorni che i bambini per esempio possono uscire, e questo naturalmente, ripeto, soprattutto per questa categoria particolare, i bambini, che poi possiamo intendere da 3 anni fino all'adolescenza, naturalmente l'idea di poter respirare è stata appunto, ha espresso questa ansia di libertà. Sul Times c'è la foto di una donna che corre, che si fa la sua corsetta. In Spagna però c'è un altro tema che di nuovo ci riporta al confronto con l'Italia, ed è quello delle autonomie regionali. El Mundo attacca Sánchez perché Sánchez sta cercando di centralizzare tutto. Sánchez dice che lo fa per un maggior coordinamento, e naturalmente le regioni autonome protestano perché vorrebbero poter decidere maggiore autonomia. Anche questo è un tema di cui non smetteremo di parlare in questa situazione, perché è un nodo ancora non risolto. Grazie Giulia, ci sentiamo domani con te, naturalmente. A domani. È tutto anche per questa puntata. Noi vi lasciamo ad hashtag Autotrasporti, con Peter Biscapa in regia, Danilo Litrani in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi. Ciao.